8. Ascolta e controlla. 1. Potrei farle una domanda? Prego, dica pure. 2. Le dispiacerebbe aspettare? Non c'è problema. 3. Le spiacerebbe prestarmi una penna? Eccola! 4. Ti rincrescerebbe fare silenzio? Scusa! 5. Mi farebbe un piacere? Perché no? 6. Mi direbbe che ore sono? Sono le 10:45.